adesso. Dammi pace, gioia, amore, fai di me quel che ti pare, io sono qui, qui per te. Sei tu che hai preso.